Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Natale sta arrivando e facciamo in modo che sia un Natale migliore per coloro che stanno dall'altra parte del mondo, dove la sofferenza si sveglia con loro e va a dormire con loro, con la possibilità di poterla cancellare prima o poi. Romina, Cristel. Abbiamo potuto utilizzare questo spazio per dare questo messaggio importantissimo e almeno smuovere le coscienze e far iniziare a far crescere insomma, un po' di consapevolezza negli animi della gente. Poi quando vedi le cose in TV vedi sempre tutto con un filtro spesso 2 metri e stare lì e finalmente viverlo è un'altra cosa. Quindi io consiglio tanti giovani di andare a toccare questo comando, ma anche non solo di andare all'estero, anche proprio nella tua comunità locale, di cercare... Oddio, basta andare nel parco di Montemarico a Roma, andate a vedere dentro, ci vive una comunità. Lungo gli argini del Tevere, in mezzo a topi, ce ne sta un'altra. Se proprio volete sentirvi buoni a Natale, che gli angioletti battono l'ale, potete farne tante di cose. Non voglio essere cattivo questa mattina, ma ero preso un impegno con il mio pubblico di parlare all'indomani della prima puntata di Mission e sono qui per parlarne. L'aspetto generale, una valutazione di tipo quantitativo, non è che mi interessi, è stato uno sfracello dal punto di vista degli ascolti, ha fatto l'8,16%, considerando che non c'era nemmeno la pubblicità porgere la katana e dire suicidati, però potrebbe essere giustificato il basso ascolto dal fatto che finalmente in prima serata a Rai 1 si sono viste cose che mai sarebbero viste. Certo, uno dice... Per fare un reportage in zone dove sono profughi, in Mali, in Giordania, c'era bisogno di scomodare Albano con le due figlie, c'era bisogno di scomodare Candida Morvillo e Francesco Pannofino. Basta prendere uno dei 100 miliardi di giornalisti che ha la RAI, mandarlo lì a Diaria, faceva il suo bel servizio e lo mandavate in prima serata e facevate anche una bella figura, come fanno tutte le TV di servizio pubblico. Uno si chiede, dice, ma sai, hanno raccolto i soldi, all'inizio hanno dato il numero dell'SMS, 2 euro per uno, penso quanti soldi hanno raccolto. Questo fa molto piacere. Magari le persone si fossero messe la mano sul portafoglio per i rifugiati in queste zone terrificanti, vittime di violenze, di stupri, di totale spersonalizzazione, sradicamento, è un buon segno. Certo, se facciamo la tara, io penso che Albano con le due figliolette sarà costato un po' più in alberghi, sostentamenti, sciarpe di seta, profumi, cremine, diarie, non credo sia andato gratis, capito? Quindi se ci mandavate il solito giornalista Rai, gli pagavate la diaria, vitto, alloggio e trasferimento, pagavate meno e davate più soldi ai poveri rifugiati. Non voglio entrare nemmeno in merito all'estetica televisiva di questo programma, perché sarebbe forse stato meglio un crudo reportage, che bisogno c'era dello studio con le scenografie in ferro arrugginito, fa vedere se ci si trovava in una sorta di ricostruzione di slam in qualche estrema periferia di qualche città africana. Certo, c'è la cucuzza che stonava un po' con quel gatto morto in testa col riportino, non è proprio bello, però ci sta bene anche questo, non voglio essere cattivo. Giulia Gebral, resumata improvvisamente, chissà perché sono anni che non si vede più in televisione, in presente appare su Rai 1. Non è che è stata messa lì perché magari dà più l'idea più legata all'aspetto dell'impegno, ma comunque si prendeva molto sul serio, gli sembrava di stare alla CNN, invece stava a Rai 1 con Cucuzza col gatto in testa, però stavano lì. Detto questo, non sarò cattivo, l'avete visto questo programma 800240024, vi sentite più buoni? Aiuterete i poveri bambini africani? Vi hanno fatto tenerezza ai bambini che urlano mentre gli fanno il vaccino con Albano che guarda la sua sciarpettina di seta? Vi hanno fatto tenerezza i due figli di Albano, Cristel e Romina, che hanno detto che quella è stata un'esperienza unica nella loro vita? Vi ha fatto tenerezza Candida Morvillo, che da Novella 2000 è passata a parlare con le donne stuprate? Se sì, è stato un bel risultato. È una realtà che molti non conoscono, quella dei profughi, dei rifugiati, il mondo che il mondo non vuole vedere. Per la prima volta su Rai 1, i rifugiati, gli sfollati di paesi come la Giordania, il Mali, Ecuador, la Repubblica Democratica del Congo, dove si stanno vivendo delle gravi crisi umanitarie, saranno i nostri protagonisti. E fino a domani è possibile sostenere gli interventi globali. Eugenio Melandri, buongiorno. Buongiorno. L'impegno me l'ero preso anche con lei, direttore della rivista Solidarietà Internazionale. Lei ha criticato moltissimo questo programma in maniera preventiva. Tutti coloro che l'hanno criticato in maniera preventiva oggi sono stati messi all'indice da tutti i resuscitati di buonismo. Dico, vedete, voi siete stati così crudeli a dire che sarebbe stato un reality. Grazie, l'hanno rimontato in fretta e furia, hanno tolto tutte le sconcezze che si erano già viste in rete. Però detto questo, il risultato sembra che sia né carne né pesce, sia qualcosa che non si capisce se è un reportage, è un reality senza reality, senza poi adesso, la seconda puntata sarà la Barale, hanno messo quelli che potevano sembrare più presentabili. Ma la cosa che chiedo a lei, che è una persona totalmente attendibile dal punto di vista della conoscenza di queste realtà, almeno è valsa la pena? Servirà a qualcosa? Il messaggio che è passato è quello giusto? No, assolutamente no. Io devo dire, lo dico con molta, anche con molta tristezza, perché speravo che almeno avessero fatto uno sforzo maggiore. Devo dire che è peggio di quello che mi aspettavo. Intanto dal punto di non è vero quello che lei ha detto, i numeri non sono importanti, perché sono importanti anche questi, perché è stato detto che venivano messi questi personaggi proprio per fare in modo che la gente vedesse il programma. È stato uno schianto anche quello, certo. Non volevo infierire. No, io infierisco, perché qui proprio sta il problema. Il problema è questo. È l'idea di fondo che si debba, per comunicare determinate tragedie, determinate situazioni al limite dell'umano, eccetera, si debbano impiegare dei personaggi che nulla hanno a che fare con. Non è perché non ci hanno messo Riccardo Iacona, che è uno dei migliori giornalisti che ha la RAI. Floris, perché, che è fighetto, non è il migliore, ma almeno piace. Almeno sono giornalisti che fanno il loro mestiere. Sì, e poi fra l'altro, si parlava della giornalista presente in studio, dice dove loro sono i protagonisti, dove di fatto i protagonisti non sono stati né i rifugiati, né i poveracci, né la gente che vive al limite dell'umano, eccetera, ma i protagonisti sono stati ancora una volta loro, sono stato Albano e le sue figlie, sono stato Pannofino, sono stato la Morvillo. Come aveva lei predetto, dice, no, che queste persone non siano soltanto allo sfondo, in realtà da come sembra proprio così. Non è facile aiutare persone vittime di tali disgrazie. Questo è il campo profughi con gli aiuti più alti, ma soprattutto è anche quello dove la gente è più arrabbiata. I nostri figli hanno rischiato la morte per allagamento e voi avete visto tutto. Sono veramente arrabbiati, perché loro pensano che andiamo lì a rubare immagini, invece il tema è capirsi. Albano, andiamo Albano. È difficile attraversare il confine, è il deserto, senza cibo, senza acqua, con i bambini. Ogni giorno arriva nuova gente. Da dove arriviamo noi si beveva l'acqua delle fogne. Credetemi, al confine c'è gente che sta morendo di fame. Sono in 20.000 al confine che cercano. A un certo punto l'operatore che sta in questo campo rifugiati dice alle figlie di Albano: voi andatevene, lasciano Albano solo, perché una settimana prima pare un'altra troupe fosse stata presa a sassate. Ma perlomeno su una cosa, l'informazione che è stata data è coerente? Quello che si è visto corrisponde a una realtà? È una realtà mediata in maniera giusta? Melandri. Ma quello che si è visto inevitabilmente corrisponde alla realtà, perché le immagini sono quelle, però è stata tutta mediata da alcune realtà di fondo. La prima è stata mediata dal fatto che l'unico problema che si aveva era quello come aiutarli. Il problema di fondo non è come aiutarli, il problema di fondo, e questo non è apparso per niente, è perché sono lì. Per quali motivi stanno succedendo queste cose? Perché la guerra in Mali? Perché la guerra in Siria? Perché nei campi profughi della Giordania si sono andati a vedere solamente i campi profughi siriani e non i campi profughi palestinesi? Perché secondo lei? Per non dar fastidio a nessuno? Per non dar fastidio a nessuno, per fare in modo ancora una volta di fare un grande marchettone natalizio in cui di fatto... E l'ha detto Albano, è Natale, bisogna essere buoni. In cui di fatto l'unico problema è la raccolta di fondi, anche qui... senza specificare precisamente che cosa si fa per aiutare. Ma cosa vuol dire aiutare? Aiutare significa portare anche questo, giustamente, ma far vedere che si portano un po' di materassi, un po' di stuoi in una casa, che si porta una stufa elettrica, e che significa questo aiutare? O non significa piuttosto stare ad ascoltare loro perché sono arrabbiati, perché questa gente è arrabbiata, perché non vuol vedere le televisioni? Ecco, queste cose qui sono completamente mancate. e ancora mi permetta. Sono qua per ascoltarla. C'è anche questo fatto qui. Io parlavo proprio poco fa con Nino Sergi, il quale continuava a sostenere che questo era l'unico modo in Rai 1 per fare un certo tipo di trasmissione, ma sono proprio tutti ignoranti i telespettatori di Rai 1. Beh, è come dire, sono talmente ormai viziati e corrotti nella testa dal punto di vista estetico che o ci metti di mezzo i cialtroni dei reality, se no nemmeno ti stanno a sentire, questo è il risultato. Facendo una statistica, facendo un sondaggio in cui si dice: secondo te è giusto che per parlare dei profughi si mandi Albano? Perché la gente deve dire che non è giusto? Ma il problema di fondo è, ancora una volta, dobbiamo fare informazione a partire dai sondaggi o dobbiamo fare informazione facendo vedere la realtà? Fermi un attimo, Teresa, perché dobbiamo anche dare voce a qualcuno che non la pensa come lei o come me. Teresa, buongiorno. Buongiorno, sono Teresa di Sassuolo. Niente, io ieri sera ho visto la trasmissione, è stata una bellissima trasmissione, è piaciuta, l'ho anche registrata perché la voglio rivedere, perché alcuni pezzi mi sono un pochino addormentata, ma penso che Cucuzza... Le ha dato un po' di abbiocco, sì. Quello sì, no, mi ha dato la biocca. Quando uno dorme, che fa? Alla mattina mi alzo presto e poi quando... Quindi la rivede in un orario più sveglio, perché giustamente, almeno vedere realtà che non immaginavo. L'ho registrata e che me la sono vista anche stamattina. E darà dei soldini per questi poveri bambini? Io sì, perché è veramente Albano, a parte che è un mio fan, se va bene, questo non ha importanza, poteva essere anche uno che va a scopare le scale, oppure uno che va a fare lo turbino nel posto di Albano. Io l'ho guardato perché è veramente stato bello. Quello che non mi è piaciuto è perché lei ha detto che Cucuccia aveva un gatto in testa. Perché è vero, è una realtà obiettiva, c'era una specie di posticcio in testa, sembrava un gatto morto, adesso poi non so esattamente se fosse gatto morto, pelo sintetico, tupè, non lo so, però era un riporto orrendo, si vedeva, Cucuzza la mia età, anzi, forse di più, non può avere i capelli tutti color ebano, perfetti, scusi, io devo sempre segnalare laddove c'è un artificio in televisione, l'ho fatto per anni, è più forte di me, sa, non mi trattengo, mandiamo il traffico. La rete è stata molto chiara, noi dobbiamo fare l'Africa come piace alla gente, bambini poveri che panze gonfie, polvere, povertà e povertà. Povertà, ma quanto ci costa sta povertà? René, tu mi fai piano infarto a me. Ma chi cazzo è? Bravi! Insomma, i bambini qua vanno a lavorare nei campi, nelle cose, ma non dovrebbero fare quei lavori, dovrebbero studiare, andare a scuola e divertirsi. Scusate, questa è la crudeltà del professor Chiappini e di Fabrizio Intonti che mi stanno alle spalle. Noi l'altra volta mandammo questo pezzetto divertente di Boris, in cui c'era il regista René Ferretti, che doveva fare Boris Mission, fare un programma lacrimevole con tutti i bambini negretti morti di fame. Era proprio Pannofino, era lo stesso Pannofino, quindi chi ha un po' di memoria televisiva forse avrà un po' sorriso a vedere l'infame regista che cerca il bambino macilento strappalacrime e il Pannofino redento che invece va in mezzo ai bambini macilenti strappalacrime e fa anche il serio. Facevo anche una riflessione, ma come mai quando devono occupare un paese escono quintali di armi, uomini pronti a uccidere, uomini pronti a decimare un popolo, e quando c'è da aiutare un popolo non c'è mai la possibilità di poterlo fare? Io ho notato che esiste il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura, il Ministero del... Sai che non esiste il Ministero della Pace? E questo mi fa pensare. Certo, veramente, bisognerebbe fare questa proposta di Albano. Sembra Miss Italia, vorrei un mondo senza guerre e senza armi. Poi a un certo punto hanno fatto anche questa operazione medianica della resumazione del fantasma registrato in finta diretta della mummia superstite dei Pink Floyd, che ha detto la stessa cosa: le armi, non commerciate le armi, non date le armi a questi paesi. Eugenio Melandri. Un vizio di fondo, guardi, è proprio questo, ci stavo proprio pensando in questo momento mentre andava le strade in diretta, cioè anche il fatto che si sia riesumato questo qui dei Rolling Stone per fare questo appello. Pink Floyd, ma la stessa Pink cosa, Floyd. No, ma non cambia nulla, sempre cadaveri di tanti anni. Dei Pink Floyd per fare questo appello, ancora una volta, le cito un altro fatto, l'unica cosa un po' interessante che ci sarebbe stata ieri sera, poteva essere questa squadra di africani che giocano a Rosarno. Beh, ancora una volta hanno parlato solamente gli italiani. Secondo, sì, gli hanno regalato il palloncino, la borsettina. È stato messo in evidenza ancora una volta il calciatore che regala il palloncino, eccetera. Bianco, loro non hanno parlato. Ancora, per fare l'appello contro le armi per i diritti umani si chiama questo dei Pink Floyd. Ma perché non l'hanno? Perché se la fanno sotto a dire loro a Trapesca qualcuno si arrabbiasse delle industrie nazionali, è chiaro. Vede, io fra le altre cose sono anche presidente di un'associazione che si chiama l'Africa. Per tanti anni ho fatto convegni e continuo a fare incontri faccio sempre parlare solo africani, perché dobbiamo smetterla di credere che la soluzione siamo noi. Noi siamo il problema, noi siamo la causa. Cioè, anche questo io ammiro molto e ringrazio la signora che farà l'offerta perché è fan di Albano e perché le è piaciuta la trasmissione. Però vede, il problema di fondo è, ancora una volta, non si risolvono i problemi tirando fuori 5 euro facendo una chiamata. Si risolvono i problemi guardando quali sono le cause. Non si risolvono i problemi portando una coperta, ma facendo in modo che la gente non abbia freddo. Allora non è che noi riusciamo a risolverli questi problemi, ma almeno denunciamoli, almeno diciamoli. Qui invece è apparsa una trasmissione, ancora una volta, dove noi ci mettiamo su un altro gradino, su un altro livello. Noi siamo persone evolute, sviluppate, eccetera, eccetera, che, bontà loro, per Natale una volta ogni tanto mettono una mano al portafoglio, non sulla coscienza. Guardi Melandri, io vengo da una orrenda e oscura città di provincia. Sotto Natale le signore del circolo cittadino, tutte dame di alta società, mogli di personaggi importanti, facevano la cioccolata per i poveri, danno la cioccolata dei poveretti che andavano a cercare, li ripulivano e li riportavano di. Mi sembra di aver visto esattamente la stessa scena, ma forse perché io sono ormai crudele e bastardo dentro. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno, sì. Guglielmo Dan Palmer, buongiorno. Va bene. Intanto sono d'accordo con lei per quanto riguarda di sera il buon Cocuzza. Il gatto c'era, è l'unica cosa su cui mi sento obiettivamente di insistere, il resto è opinabile a mio parere. Gli animalisti saranno sicuramente oggi tutti quanti ingastriti, insomma, con quel gatto. Ma lì sta bene, al calduccio. Vabbè, capirai, meno male, meno di sargento. Beh, andiamo al punto, Guglielmo, ci abbiamo poco tempo. Dunque, io sono italiano, amo i bambini, però amo i bambini di tutto il mondo, sia ben chiaro. Però in primis amo i bambini italiani. E vabbè, io dico che comunque, proprio ieri, tutto a caso, è vero, è stato, per quanto riguarda il metodo Stamina, i nostri bambini che venivano lasciati morire. Vabbè, sta tirando fuori una cazzata. Scusi il tema, non c'è proprio niente. Adesso, che c'entra adesso che tiri fuori Stamina? Che è una questione controversa a livelli di istituzionali, scientifici, politici. Approfitta per dire questa stupidaggine, non c'entra niente, non mi dà modo nemmeno di approfondire il tema. È un altro tema, ne tratteremo, non è che voglio sembrare reattivo. Stamina salva i bambini. Qualcuno dovrà dimostrarcelo questo. Lorenzo. Non siamo proprio italiani in questo. Sì. Ecco, io volevo dire questo, stavo ascoltando l'intervento della signora di prima, è proprio il vulnus, quindi sono contento di aver chiamato. Io sono un operatore internazionale e lavoro da quasi 20 anni dove ci sono i rifugiati. Volevo dire questo, il volontariato fatto così, cioè prendendo il telefono in mano e mandando soldi seguendo un istinto che può sembrare anche positivo, perché comunque si parla di buoni sentimenti, è la cosa peggiore in assoluto che si possa fare. Perché? Spieghi perché in una parola. La peste, ve lo spiego. Ci sono migliaia di associazioni, anche enormi, anche famosissimi, dei vecchi dinosauri, come può essere, che ne so, l'ACNUR, come può essere... Sì. Vabbè, adesso andiamo al punto, sì. Ecco, dovreste, prima di dare soldi a queste persone, andare i bilanci che sono pubblici di questi enti. Ci sono pubblici, sono investiti, le andate a vedere. Ogni euro che regalate a queste associazioni, il 60% o più serve per sfamare l'associazione. Guardi, c'è una nostra collega, Valentina Furlanetto, che ha fatto un libro esemplare su questo. Quanto realmente arriva al vettore ultimo nella grande macchina della beneficenza, della solidarietà in Italia. In Italia abbiamo delle percentuali ridicole rispetto al resto del mondo. Le macchine organizzative, produttive, assorbono una parte prepotente di questo bilancio. Faccio chiudere Eugenio Melandri. Vedi, io mi sono un po' arrabbiato con l'ascoltatore di prima, ma è sempre sull'onda dell'emotività. Stamina salva i bambini, perché si vede in televisione, perché lo dicono tutti, senza prendersi la briga di capire che esattamente, per capire se un farmaco efficiente funziona, occorre un iter molto importante, molto interessante. Lo stesso meccanismo. La televisione fa bene e è solidale semplicemente perché raccoglie 2 euro e perché lo dice Cucuzza. Vale un po' come paragone? Beh, probabilmente sì. Il problema di fondo però mette in evidenza una cosa, e io su questo vorrei insistere. Mette in evidenza che la RAI, in questo caso qui, ha veramente deciso di diseducare il pubblico, Per me questa trasmissione non solo è stata inutile, ma mi permetta di dire è stata anche dannosa, perché ha dato un'immagine sbagliata dei problemi che ci sono nel mondo e ha dato un'immagine sbagliata della loro soluzione. Non si risolvono i problemi raccogliendo coperte. Le coperte sono importanti, senz'altro, però le coperte sono condizione necessaria e non sufficiente, perché altrimenti rischiano, invece che togliere il fenomeno, che andare contro il fenomeno, rischiano di, invece di riproporlo e di riprodurlo. Questo è un po' il senso di quello che è avvenuto ieri sera. Un esempio semplice è stato, può essere questo. Vede, in Giordania hanno fatto vedere un campo vuoto che stanno preparando adesso per eventuali nuovi rifugiati. L'impressione che ho è che certe associazioni, soprattutto quelle di carattere internazionale, lavorino per mantenere se stesse e non per risolvere i problemi. Grazie Eugenio Melandri, grazie che ci ha ascoltato. A domani.